Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. 14ª puntata. Sono tornato in pista senza una parola. Gli spogliatoi erano vuoti e ho iniziato il riscaldamento oltre la rete dell'impianto. Roberto è fermo al centro perfetto del campo. La mano destra stringe forte il cronometro di sempre. Ha scandito i progressi di molte generazioni di atleti. Roberto è fermo al centro perfetto del tempo. In pista tre atleti a dannarsi corpo e anima. Quello in mezzo è Gaudenti. Il volto è scavato, sempre di più. Dubito arrivi ai 60 kg e sono distribuiti su almeno 180 centimetri. A scortarlo sono due magrebini che si alternano alla testa. Cherono è ritornato in Kenya con la famiglia. I risparmi devono essergli sembrati sufficienti all'acquisto di un piccolo gregge di animali da pascolo. È un povero vecchio atleta. Gli atleti africani di nuova generazione corrono per gli Emirati Arabi e sanno investire in borsa e in immobili. I magrebini sputano perfettamente sul cordolo a scansioni di tempo regolari. Li ammiro. Non sono mai riuscito a sputare in corsa senza filamenti. Li ammiro per la loro facilità di corsa e per come sputano. Uno è il ragazzo dell'autobus, quello con la bionda dai fianchi sformati. È ora di entrare in pista. Roberto si fa scuro in volto. Non finge sorpresa o cordialità, non finge nulla. Non è mai stato un buon attore. Non gli date da mangiare a Gaudenti, pare un fantasma. Proprio tu parli di fantasmi. Ti avevamo dato per morto. Gaudenti fa un gesto di saluto, ma il lavoro non è finito, non deve perdere la concentrazione. Gli altri due guardano per terra, fortunatamente. Perché morire? Gli atleti morti mettono tristezza, più di qualunque altro morto, specialmente se sono ragazze. Gaudenti sta lavorando molto e ha un regime alimentare molto rigido. Che intenzioni hai? Mi sono riscaldato. Ne hanno ancora per molto? Sono a metà. Ancora 5 miglia, a 2,45. Mi aggrego alla simpatica compagnia, mi metto dietro buono buono. Ma ti sei allenato nell'ultimo periodo? Sì, insomma, dopo il problema fisico in Emilia. Sono un talento, un eletto al desco degli dei, tra i migliori italiani della classe 80. Eri tu a dirlo, tu e Giulio. Ero stanco, il mio organismo si è preso un po' di recupero. Ma in atletica non si improvvisa un cazzo. Sembri fuori di testa. Non ti fai vedere da 2 settimane. Sarebbe il caso di rifare il certificato di idoneità agonistica. Che hai fatto in questi giorni? Allenamenti segreti in altura. Stroncavo cavalli da corsa. Sei scemo, veramente. Se non fosse così non correrei. Sarei un calciatore di C1. Un sacco di soldi e poca fatica. Metti i gettoni, che inizio a girare in giostra con gli altri bambini. Gli altri partono da fermi. Io cammino sempre più velocemente e sulla riga spicco una specie di balzo che mi fa guadagnare almeno un paio di secondi. I tre hanno avvertito la mia presenza, ma non si prendono il tempo dello stupore. È troppa l'ansia per l'acido lattico che di lì a poco arriverà, come sempre, fino alle gengive, accompagnando i battiti cardiaci fuori soglia. La paura che i tempi di passaggio urlati da Roberto siano lenti. I due cavalli scuri sono fatti di qualche stimolante. Efedrina, presumo. Tra una ripetizione e l'altra raggiungono lo spogliatoio ed escono dopo poco con gli occhi che brillano. Gaudenti mi è parso tranquillo, non ha usato eccitanti. Deve solo tenere le pulsazioni basse. Deve solo continuare i trattamenti farmacologici che fanno esplodere piccole scariche di ossigeno dal midollo spinale verso le periferie dell'organismo. Deve arrivare a 200 km settimanali, senza infortuni, senza distrazioni. Deve pensare poco, continuare a scuoiarsi senza perdere massa magra. Tiro io. Al primo giro passo in 1,5, troppo veloce. Dietro rantolano. Nella mia testa si ammucchiano visi di giovani atleti. Dietro mi odiano. Questo stronzo arriva a metà dell'allenamento e fa il fenomeno. Ecco cosa pensano. Finiamo in 2,40. I magrebini mi si piazzano davanti e abbaiano. Quello dell'autobus ammutolisce. Pensa alla mia faccia e a qualche ricordo che ancora brucia. Gaudenti alza il pollice e mi allarga un sorriso. Ok ragazzo, mi si stava addormentando la gamba, avanti così, questi due somari sono buoni da macello. Lo mandò a cagare. L'Epo, il Testoviron, il Nerabol, il Dianabol, il Winstrol lo mettono di buon umore. Sull'ultimo rettilineo ha superato i due africani e mi ha affiancato, allineandosi millimetricamente, stando bene attento a non superarmi, in sintonia con le mie falcate, ma senza alcuna fatica. Ero come se avvertissi le sue pulsazioni lente battermi nel cervello. Io ero allo stremo, una cazzo di morte del cigno, uno show senza senso. Non voglio più nulla da questa pista. Vado verso gli spogliatoi sotto gli occhi cattivi di Roberto. Sento dei passi dietro di me, naturalmente mi ha riconosciuto. Pensa di sbattermi la faccia sul lavandino, pensa al mio sangue su tutto quel bianco, pensa alla sua bionda umiliata, alle vene delle gambe e delle braccia in rilievo, vasodilatazione, penso a un mix di efedrina e di clenbuterolo. Mi giro e do il primo cazzotto della mia vita. Non me la sono cavata male. Ho firmato il mio foglio di via da questa pista di merda, da questo sport di merda, che è tutta la mia vita. Fuori dagli spogliatoi discutono. Sono seduto sulla panca con la testa tra le mani. Non sono nemmeno sudato. Sento la voce di Roberto, poi quella calma di Gaudenti. Le voci stridule da efedrina si fanno lontane. Li hanno convinti a non spaccarmi la testa. Hanno interrotto l'allenamento. Roberto gli allunga un cartoccio di banconote e li spinge oltre il cancello. Io non avrei mai interrotto un allenamento in pista. Gaudenti mi siede a fianco. Perché vi siete fermati? Avevate ancora 4.000. Ride. Cazzo, hai dato un pugno in faccia a una delle mie lepri. Mi è sembrata una buona scusa per interrompere questo massacro. E Roberto è un po' incazzato. Io no. Sei freschissimo e gli allenamenti si finiscono sempre. Porta male non finirli. Vecchie teorie. Contano le sensazioni giuste. Non ammazzarsi fino ai crampi. Conta l'epo. Il Testovist. E tutta l'altra merda che tu sai. Claudio, mi dici che ti è preso? Eri sulla strada giusta, quella che arriva dritta a Pechino. Ma ci pensi, io e te, dalle finali dei giochi della gioventù a Pechino? Ma non è fantastico? Alle terme di Caracalla a Roma arrivai secondo, non so più nulla del calabrese che mi batté. Io 106esimo su 130 arrivati, tu eri un mito e lo sei ancora. 3 anni dopo arrivasti terzo agli italiani junior e ti guadagnasti un posto per i mondiali. I tecnici federali dissero che fu la rassegna nazionale più misera della storia dei campionati di campestre. Come a dire che da quella generazione non sarebbero arrivati campioni per il futuro. Mi ricordo benissimo. La cosa mi fece male. Lo lessi da qualche parte e mi rovinò la festa. I tecnici sbagliano. No, ero oggettivo. Sapevano tutto di noi. Almeno dei primi arrivati. Primati personali, risultati precedenti. I fatti gli hanno dato ragione. Io e gli altri due ai mondiali poi siamo naufragati. Siamo arrivati quasi a 4 minuti dal primo. Sono seguite annate deboli, sempre più deboli, generazioni senza forza e talento. I praticanti sono diminuiti costantemente e di conseguenza il livello qualitativo dei giovani atleti. Sono cambiate molte cose, troppo in fretta. Ma tu oggi sei tra gli atleti sotto osservazione per Pechino. Sono stato solo una cavia. Hanno voluto vedere dove potevano arrivare. Adesso ci sei tu. Oggi conoscono i limiti, o almeno ne sanno di più. Funziona così. Quindi potrei essere una cavia anch'io. Perché no? Ci sono altri atleti in altre piste sparpagliati in giro per l'Italia. Forse il tuo fisico reagisce bene alle maggiorazioni di cilindrata. Tu eri quasi grasso. I valori di emoglobina, ematocrito, testosterone erano bassi e i tuoi risultati nelle categorie giovanili erano mediocri. Non disperarti. E allora perché hanno scelto me? Avevano intuito margini di miglioramento enormi, materia grezza su cui lavorare. Funziona così. Io non ho impostato tutto sulla farmacologia. Col mio medico abbiamo lavorato anche in altre direzioni. Mai sentito parlare di bioenergia? Solo dal tuo medico. Ho parlato con lui. Ero di cattivo umore quel giorno, mal disposto a certe cazzate. Come oggi. Come sempre. Giulio e Roberto si materializzano all'ingresso dello spogliatoio. È Giulio a parlare. Riprendono il filo del mio discorso come stessero origliando da un po' di tempo. Funziona che quasi corre. La palestra di pugilato te la vai a cercare da solo. Funziona che tu da oggi puoi fare tutte le corse podistiche delle feste del prete o delle feste dell'unità. Pensa che onore sarà per loro averti alla partenza. Funziona che ti allenerai sugli argini. Funziona che non ti vogliamo più vedere su questa pista. Anche tu, Roberto, la pensi così? Roberto aveva alzato il tiro dello sguardo, evitando di fissarmi. Stava cercando di concentrarsi sulla perdita del lavandino. Plic, plic, plic. Avete fatto così anche con Clara? Non le venivano le mestruazioni, sveniva, crisi respiratorie. Era imbarazzante per voi, pericoloso. Le avete impedito di continuare ad allenarsi. Io non mi tolgo dalle palle. Abbiamo fiale del tuo sangue. Le tiene il doctor nel frigorifero del suo studio. Vuoi che qualche fiala finisca al laboratorio della commissione antidoping? Mi basta una telefonata. Non è una cosa simpatica la squalifica, è una bella sputtanata. Non reggete la pressione, tutti i podisti sono pessimi guidatori. Matteoli ieri è uscito di strada. Ho l'immagine di Matteoli in testa. Rientra da una gara dove sul palco della premiazione è salito solo lui. Nessuno ad applaudire. Braccia conserte. L'imbarazzo e la freddezza degli organizzatori. Matteoli in autostrada. Chiude gli occhi e sterza secco il volante verso il guardrail. Nessuno dice più una parola, non c'è più un cazzo da dire. Plic, plic, plic. Sempre gli anni Ottanta, che si prendono la colpa di tutto. In questo decennio tutto ha inizio o fine. Roberto dà un senso compiuto alla sua figura di sbirro buono. Ha deciso di parlarmi. È l'anello debole, lo è sempre stato. Deve vuotarsi la coscienza. Ha il viso stanco, la pelle tirata, l'iride giallognola. L'ho guardato incorniciato nel videocitofono almeno 10 secondi prima di dargli il tiro. Mi fa pena. Fra una manciata d'anni arriverà il primo infarto o la digestione inizierà a fare cilecca. L'endoscopia dirà il perché. Sprofonda nel mio divano. Ha chiesto solo un bicchiere d'acqua. Guarda la disposizione dell'arredamento, soprattutto le foto alle pareti. Claudio, ti dico subito che in questa storia non ci sono cattivi. Lascia decidere a me. Insomma, già nel 77-78 qualche esperimento era andato a buon fine. Un fondista aveva fatto faville agli europei. Avevamo preparato i campionati in Scandinavia con un'equipe medica di vari paesi. Ma erano i nostri medici a indagare le nuove metodologie per arricchire il sangue. Pensa che durante uno stage uno sciatore di fondo finlandese aveva corso un 10.000 sotto i 29 minuti. Con gli sci decollava sulle pietre. Così, un piccolo test di efficienza. I tecnici non sapevano più per che sport dovevano allenarlo. Aveva risposto bene a certi esperimenti che su altri avevano dato esiti confusi, alti e bassi. In Italia dovevamo ancora riprenderci dalla storia del ragazzo morto dopo l'antitetanica. Poi i nuotatori che svenivano negli spogliatoi dopo gli allenamenti. Insomma, sono cose note. Quando uno shuttle prende fuoco, per un po' di anni è un casino. I rubinetti si chiudono. Ma il progresso non si può fermare. Poi negli anni Ottanta le cose hanno iniziato a girare bene davvero. Gli africani facevano record nei meeting e sbagliavano regolarmente i grandi appuntamenti. Nella maratona era ancora più facile. I neri nei primi chilometri si scannavano a vicenda. Bastava sapere aspettare. Le rimonte finali di un bianco accendevano i telespettatori e gli sponsor. La maratona di New York per certi versi è una cialtronata. Comunque non è mai stata quella con il livello tecnico più alto. La concorrenza a Londra e Berlino è più feroce, ma a livello mediatico ha pagato moltissimo. E poi era più facile allenare atleti per le lunghe distanze. Le corse su strada stavano diventando un business inarrestabile. Conveniva puntare su un maratoneta e mollare le specialità più tecniche. Più soldi, meno complicazioni. E lì arrivavamo noi, con una programmazione perfetta e tanti globuli rossi il giorno giusto, più o meno. Quella faccia da cane bastonate per dirmi queste cazzate? Sono cose che sanno anche i bambini. Atleti che ringraziano l'autoemotrasfusione appena scesi dalla pancia dell'aereo con le medaglie al collo. O mi stai per confessare che quel giorno a Dallas hai sparato tu al presidente? No, sono qui per la foto, quella del raduno giovanile, quella appesa alla bacheca. Uno dei tanti stage per giovani promesse, non avrei riconosciuto nessuno. I professori stentano a riconoscere i visi delle centinaia di alunni che hanno formato. È sempre una delusione quando un professore non ci riconosce, ma è umano. L'hai appesa tu? Giulio sa che sei venuto a trovarmi? Meglio di no, è partito per un raduno a Tirrenia. Qualunque persona con un'intelligenza media sa che un atleta professionista di uno sport serio è praticamente un tossicodipendente. Si conducono vite disperate, spesso in solitudine. Anch'io ho dovuto rassegnarmi, ma il gioco mi ha stufato. Ho fatto del male a qualcuno. Perché sei seduto sul mio divano? Dimmi di Clara. No, dimmi tu di Clara. Calmati. L'ho solo rivista in un video che mi è arrivato via mail da te. Almeno mi era sembrata lei. Non sono stato io a mandarti la mail. È una sua amica che si diverte a fare la matta. C'è qualcosa che non va, il video è recente. Ma lei... Cazzo, non lo so. Non preoccuparti, puoi dormire stanotte. I vostri giochetti col sangue e con gli ormoni non le hanno bloccato lo sviluppo. Ho visto altre immagini di Clara, era ingrassata nei punti giusti, anche troppo. E a quanto pare la vita era andata avanti bene. Così sembrava. Io non ho mai fatto nessun giochetto. Mi occupo di programmi di allenamento e basta. Vaffanculo. So solo che le sperimentazioni stavano andando davvero bene, nessun effetto collaterale. Un patto col diavolo senza il rovescio della medaglia. Solo con un atleta a fine carriera hanno dovuto andarci giù un po' pesante. Era davvero logoro, stremato. Voleva chiudere in bellezza, era disposto a correre qualche rischio. Sono arrivati a prelevargli 800 cc di sangue per 2 volte in 40 giorni. Quando hanno reimmesso il sangue arricchito, sembrava non esserci alcun problema. Si è dovuto ritirare dalla maratona con un blocco intestinale in atto e un'improvvisa ritenzione idrica. Era gonfio come un pallone, ma non è mai stato in pericolo di vita. E Clara? Non posso escludere che i medici avessero iniziato a lavorare su atleti molto giovani. Clara era incredibile. Stando ai suoi esami clinici, non avrebbe dovuto reggersi in piedi. Un'anemia da campo di concentramento. Invece otteneva tempi che in Europa nessuna coetanea poteva avvicinare, soprattutto su distanze lunghe. Io stesso le feci un test sull'ora in pista, superò i 17 chilometri, ma aveva 15 anni. Ti sembrerà una cazzata, ma era felice. Quel giorno era davvero felice. Nel video piangeva. No, non parlarmi di quel video, mi fa diventare matto. Pensavo fosse un mio incubo. Non ero più certo di averlo visto davvero. Poi è arrivata la foto sulla bacheca del campo. Stai andando bene. Avanti così e non ti prenderò a testate. Giulio, stavano cercando una come lei. I medici avrebbero spostato i limiti umani femminili oltre ogni ragionevole sogno. Clara sembrava il soggetto ideale. Agile e resistente. Un organismo che dava risultati importanti lavorando in economia. Con della benzina buona sarebbe stato un fenomeno. Una campionessa olimpica di maratona in embrione. In realtà sembrava così a tutti, me compreso. Poi, i tentativi di potenziarne il motore fallirono. La realtà aveva preso a testate la teoria scientifica. Nessuna integrazione veniva assecondata dal suo fisico. Una specie di rigetto. Aveva iniziato a stare male, non mangiava, era stata anche ricoverata in ospedale. In pista continuavo a seguirla io. I tempi peggioravano, anche se le gambe erano più muscolose. Era più robusta, ma era aumentata la ritenzione idrica e la percentuale di grasso era arrivata al 20%, intollerabile per un mezzo fondista. Cos'era successo? E che ne so, non sono un biochimico. Il fisico sembrava esplodere disordinatamente. Non era una crescita, parlerei di mutazione. Vomitava dopo lo sforzo e andava ogni giorno più piano. Il resto lo puoi immaginare. Peluria nera sulle gambe, quanto di peggio. Tu che hai fatto? Non ho enfatizzato queste cose. Tradotto? Sono stato zitto, anche quando la vedevo vomitare nello spogliatoio dopo l'allenamento. È stata Clara a scongiurarmi di non dire nulla. Me lo ha fatto giurare. Che idiota. Comunque Giulio sapeva tutto. Non ne voleva più sapere, cercava solo il modo di liquidarla. E i medici probabilmente avrebbero ammesso che la sperimentazione su Clara era fuori controllo. Fallimento. Ma i casi isolati fallimentari non li avrebbero fermati. Erano fuori di testa. Testavano i farmaci su loro stessi. Uno addirittura su un figlio che faceva atletica. Onesto. Sì, ma facevano paura. Sembravano bambini. Si sfidavano tra di loro, soprattutto in bicicletta. Limavano minuti sui passi dolomitici. Si divertivano ad avvicinare i tempi dei campioni che allenavano. Avevano la barba bianca e il motore nuovo fiammante. Erano in estasi e dimostravano concretamente che i loro metodi erano sicuri ed efficaci. A me interessa Clara. Davvero non ne sai di più? Giravano voci, pare che non si fosse più ripresa, depressione, anoressia, cose così. L'atletica era tutto per lei. I genitori avevano deciso di cambiare città. Per voi era solo un piccolo freak. La bambolina si è rotta e Giulio l'ha fatta fuori alla fine del raduno. In quella foto Clara sorride. È il penultimo giorno del raduno. L'ultimo giorno che ha sorriso. Voi non sapete nulla di questi piccoli fallimenti. Quando un ragazzino smette di migliorare, ce n'è sempre un altro che promette bene. Non so che cos'altro avrei potuto fare. Non mi sento responsabile di nulla. Se fosse vero non saresti qui. E noi che cazzo dovremmo fare secondo te, eh? Insomma, siamo responsabili di cosa? Non lo so. Se lo sapessi, ti spaccherei quel naso a testate. Aveva preso a fissare la foto sulla parete. Penso che tu sia l'unico ad avere una foto di Donato Sabì alla parete. Non ha vinto quasi nulla, a parte un titolo europeo indoor nel 1984. E tu sei uno dei pochi che oggi avrebbe potuto riconoscere il soggetto. Dovresti appendere anche le lastre del suo tendine maledetto, quelle del 1985, l'anno dell'ultimo disperato intervento chirurgico. Lo conosco, te le potrei procurare. Di certo le ha tenute. Il 1986 non andò meglio e fu la fine. Fallimenti. Non direi, Donato era arrivato a correre gli 800 in 1,44, senza ricorrere al doping. Era un ragazzo fantastico, un talento infinito. Allenarlo era una gioia e un tormento. Era un capolavoro delicatissimo. Qualcuno gli propose un aiuto per tornare a sperare. Testosterone. Non accettò e raccontò tutto a un giornalista. Tu non hai lo stesso talento, né lo stesso rigore morale. Sei condannato alla mediocrità e agli atteggiamenti contraddittori. Sei confuso. Non mi piaci. Io sono condannato ad allenare gente come te. Puoi riabilitarti davvero solo togliendoti dalle palle. Su questo Giulio ha ragione. Davvero? Magari per un po' di tempo. Devi ritrovare la serenità. Ho visto le bottiglie in frigo. E sangue. Ci sono tracce di sangue dappertutto. Non so cosa stai combinando, ma è chiaro che stai uscendo di testa. O sei su un limite pericoloso. Forse non sono affari tuoi. Dovresti fare pace con Sara, chiederle di tornare in questa casa. Potresti ricominciare a correre. Magari è l'unica cosa che ti tiene in equilibrio, in salvo. Dovresti correre senza farmaci. Poi magari fra qualche mese ricominciamo un programma come si deve. Con Clara hai detto una frase del genere? E quella standard? Quante volte l'hai recitata? Tu devi pensare a salvare te stesso. Ti sei vista allo specchio? Evito. Lo dico per te. Non sei peggiore di tanti altri che ho allenato. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.